yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Vivido ricordo di una bella nottata di quest'estate che stavo bevendo margarita con amici e amiche sul bordo del Tevere, quando vidi delle enormi pantegane che nuotavano felici. Sapete come nuotano i topi? I topi nuotano, lasciano una scia, si vede il naso che esce fuori e ogni tanto la coda dietro che si agita. Queste erano proprio grosse, saranno state 20-30 centimetri. Faceva una sorta di gara di canottaggio tra topi sotto i ponti di Castel Sant'Angelo. Erano meravigliosi. Dissi all'oste che mi serviva margarita e dissi: ma guardate che bei toponi che ci sono. Quello, spaventato perché potessi mai mettere in allarme gli altri avventori, disse: no, non sono topi, sono nutri. Devo capire la differenza. Le nutri me le ricordo, le nutri da ragazzo le vedevo a Villa Panfili, sono sempre dei toponi, hanno una bella codona rosa grande, sono una sorta di nobile specie della pantegana. Beh, i topi me li guardavo correre sotto il Tevere e pensavo che in fondo il topo è costretto a un ben amaro destino. Ieri la stampa, anzi, ha fatto due paginone sull'allarme topi a Parigi. A Parigi pare ci siano 6 milioni di ratti. Sta crescendo una nuova specie di topi resistentissimi, che resistono anche al veleno. Questa è una sorta di leggenda nera che va attorno alla specie dei topi. Poi avrò modo di farvi avere tutte le conferme possibili che i topi in realtà siano una sorta di specie indistruttibile, di specie indelebile. Sappiamo che sotto di noi pullano topi, ne abbiamo 5-6 a testa. Sotto i nostri piedi c'è un brulicare di topi. Basta vedere il filmettino divertente, il cartone animato di Ratatouille, e si vede queste colonie di ratti che galleggiano sotto le cucine, sotto le città. Sono tanti, sono organizzatissimi e sono indistruttibili. Io ho ricordi fanciulleschi di lotte al topo. Vivendo in campagna, la lotta al topo era uno dei passatempi estivi che maggiormente ci affascinava. Ricordo con la carabina Flaubert, con le fionde, con i sassi, con i bastoni, con qualunque cosa potesse essere contundente, facevamo questa sorta di safari casalingo. Finché non lo prendevamo e lo immolavamo, uccidevamo il povero topolino. Ma in realtà era un sacrificio che faceva parte dei rituali campagnoli. Il topo di campagna rispetto al topo di città è molto più nobile, molto meno schifoso. È il grosso pantaganone che fa schifo, è il topone, il sorcione, quello grosso, nero, quello che vediamo correre attraverso le macchine la sera quando rincasiamo, quello improvvisamente sbuca, quello che rompe nel traffico. Di fronte alle poste di Viale Mazzini una volta vidi una signora che parcheggiò la macchina e scoppò via inorridita. In un alberello di quelle, di quelle belle siepi di giardinetti al centro del viale, c'era una colonia di decine e decine di topi. Erano lì tutti appesi come pere mature a un albero e stanno lì, la guardavano e soffiavano, e questa scappava via. Sì, perché le donne hanno un terrore atavico, viscerale dei topi, salgono sulle sedie. Una volta mi disse uno psichiatra: perché temono che il topo possa insinuarsi e nei luoghi innominabili. Ecco, questo invece mi ricorda la seconda paradossale maledizione del topo. Il topo come genere maschile è qualcosa di detestabile, qualcosa di schifoso, qualcosa di orribile, e qualcosa che tutti temono e tutti tengono a distanza. Il primo istinto è di ucciderlo, di urlare, di scappare. Il topo, quando vira al genere femminile, diventa qualcosa di carezzevole, qualcosa di delizioso, qualcosa che immediatamente suscita in uomini, donne, maschi pensieri di lascivia, di desiderio, di carezzevole fuga dal mondo. Ecco, questa meravigliosa e terribile bestia che al maschile fa così schifo e al femminile così suggestiva, oggi sarà l'argomento che ispirerà le nostre chiacchiere. Raffaella, devi cantare con me. Cantare con te? Ma che cosa? Strapazzami di coccole, è tanto che non me ne fai più. Va bene, va bene. Finalmente ci sono riuscito. Prego, maestra. Tutto sale, sale, tutto sale, sono salite anche le nespole, nespole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Tutto gira, gira, tutto gira. Al L'altro fantastico paradosso attorno alla figura del topo è, per quanto ci faccia orrore, quanto faccia comunemente orrore, poi a me non è che poi faccia tanto schifo, sono abituato, ne ho visti tanti nella vita, soprattutto tanti, sì, ne ho visti tanti di topi e quindi non mi fanno poi tanta paura. E volevo dire l'altro paradosso, che questo animalone in realtà è la metafora più frequentata nell'immaginario fanciullesco. Topo Gigio era uno dei tanti, era il simbolo della televisione, la compagna infaticabile della fanciullezza e dell'adolescenza, oggi della vecchiaia e del cammino pretombale dell'italiano, appunto, che in questi ultimi 50 anni è sempre stato accompagnato dalla visione, aveva Topo Gigio al centro dell'immaginario fanciullesco. Topolino è il topo che viene dagli Stati Uniti, Ratatouille è il topo di origine francese, ma ce ne sono altre centinaia. Potrei citarvi Geronimo Stilton, è un topo che andava molto una decina di anni fa, un topo investigatore su cui i ragazzi sono appassionati moltissimo. Esistono fumetti, metafore, racconti, esistono topi che fanno meditare su quelli che sono gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo. Esistono infinità di topi che comunque raffigurano la realtà per i ragazzi. Ecco perché il topo è considerato l'animale simbolico che più serve a raccontare, educare e far capire il mondo ai ragazzi. Si sarebbe detto che unici a restare in città fossero i topi, che non sembravano aver paura di nulla e si trovavano ovunque. Ah, aiuto! Aiuto, via, via, via, aiuto! Fuori di qui! Vostro onore, dovete fare qualcosa per liberarci dai topi. Sono dappertutto. Bisogna intervenire. Bestiacce, mi sono entrata in casa e hanno divorato tutte le provviste. Sì, dobbiamo fare qualcosa. Così il sindaco ordinò all'esercito di montare la guardia davanti a ogni porta per impedire ai topi di entrare. Questi però non sembravano troppo preoccupati. Una delle favole più inquietanti e probabilmente più dense di simbolismi sto cercando questa mattina di suscitare, a cui vi pregherei di dare risposta chiamando all'800 24 0024 per definire l'immaginario del topo o della topa, se volete, nel vostra esistenza, nel vostro pensiero, nelle vostre inquietudini e nelle vostre sublimi aspirazioni. Pensavi che sarei rimasto a casa per sempre con te? Prima o poi i passerotti devono lasciare il nido. Noi non siamo passeri, siamo topi. Noi non lasciamo il nido. Casomai lo facciamo più grande. Forse sono un topo diverso. Forse non sei affatto un topo. Forse è meglio così. Ehi, che forte il gruppo di stasera, eh? Topi, non facciamo che rubare. Sono stufo di rubare. Io voglio creare, voglio aggiungere qualcosa di mio a questo mondo. Parli proprio come gli umani. Che non sono così cattivi come dici. La derattizzazione è una delle attività che più appassiona l'umanità. Liberarsi dai topi, scacciare i topi, chiamare il pifferaio magico e con il piffero porterà via i topi, li potrà tutti affogare. Ma in realtà, non compensato giustamente, porterà via con lo stesso piffero anche bambini. Come se bambini e topi potessero seguire la stessa suggestione, avessero lo stesso punto di attrattiva. La derattizzazione casalinga è una delle attività che maggiormente appassiona gli umarelles. Infatti Danilo Maso Masotti mi ha appena comunicato su Facebook, anzi mi ha mandato la fotocopia dei toparelles, che sono gli avvisi che mettono gli umarelles nelle bacheche condominiali. C'è uno bellissimo scritto su carta quadretti, sottolineato con il pennarello rosso: avviso, in cantina ci sono i topi, scritto in rosso. Si prega di controllare la propria cantina e pulire e buttare tutto ciò che possa essere o creare tali situazioni. Grazie per la collaborazione, a giorni metteremo delle trappole. Il comitato degli umarelles che mettono le trappole, immaginate, riunioni condominiali per mettere le terribili trappole per topi. Non so se esistano, probabilmente l'hanno proibite per motivi umanitari, non lo so. Avevo le trappole a topo, erano bellissime, ci si metteva un pezzettino di lardo, scattava la molla della gabbietta e si trovava il topo sempre dentro, la codina strizzata dentro la gabbietta. Passava lungo tempo, lo osservavamo nella sua agonia e poi lo davamo al gatto. Poi esistevano altri sistemi per prendere i topi, poi esisteva il mitologico pungitopo, che era una sorta di erba spinosa con bacche rosse che si avvolgeva nei bastoni che nelle cantine servivano a tenere appiccicati i salami e i prosciutti. Se no i topi se ne andavano a mangiare, si metteva il pungitopo, ma i topi non si facevano poi tanto impressionare da quella erbetta pungigliosa. Sembrava che non ci fosse più alcuna speranza. Chiese dei volontari e delle idee, ma nessuno si fece avanti. Quando? Eccellenza, sono il pifferaio al vostro servizio. Potrei esservi utile. Tu sei solo un povero pifferaio. Come pensi di riuscire dove i soldati hanno fallito? Ipnotizzerò i topi al suono di una melodia e li porterò lontano dalla città. Bravo! Eccellente idea, figlio mio. Comincia pure. Da parte della cittadinanza ti auguro buona fortuna e ti assicuro che se riuscirai nel tuo scopo, verrai lautamente compensato. Amalia, buongiorno. Buongiorno. Con il suono del piffero e il pifferaio magico si senta assediata da una sorta di esercito di topi. Complimenti, perché lei è di una simpatia unica. Sì, ma non li faccio perché ho mal di testa questa mattina. No, le volevo raccontare. Ha sempre mal di testa però lei. Eh sì, evidentemente sa. Senta, ha a che fare con l'argomento di questa mattina. Allora, questo cerchio la testa che non mi abbandona. Quando lavoravo ai miei tempi avevo una capa durissima e molto erboruta e lavoravamo in un seminterrato. Che lavoro facevate? Lavoravo alla RAI. Cioè, no, scusi, ci ho lavorato 20 anni. No, ci ho lavorato 20 anni alla RAI. Mi spieghi il seminterrato della RAI con la capa? Lavoravamo all'inizio del nostro lavoro, che lavoravo in Cineteca. Ma dov'era? In che via? Lavoravo in Via Novaro. L'ex palazzina di Via Novaro, dove adesso sta la sede. Però all'inizio ci avevano sbattuto lì al Foro Italico. Al Foro Italico. Era sotto, sì. Sì, quindi stavate naturalmente a contatto con i topi. Allora a un certo punto sentiamo strillare, andiamo in gabinetto e troviamo la signora, la nostra capa, che stava arrampicata sopra il water e strillava: aiuto, un topo, un topo! Con le mutande calate naturalmente, con le mutande calate in maniera vergognosa. Non lo so, quello non me lo ricordo. È come se stava lì. Comunque è stato divertente il fatto che lei, una donna così autorevole, insomma, fosse impaurita da questo topolino, era un topolino poi, questo volevo raccontare. Anche gli elefanti hanno paura dei topolini, quindi la dura capa e coriacea probabilmente era spaventata dal topolino. E poi quando ero bambina che vivevo in campagna facevamo delle cose orribili su questi poveri topi che catturavamo con le trappole, col formaggio, e poi le scuoiavamo e facevamo delle specie di pelli. Ah, facciate delle belle borsettine di pelle di topo. Di pelle di topo. Ma dove si produceva? Di quello che facevamo da bambini. Sì, ma dove si produceva questa attività di bricolage fanciullesco? In quale regione d'Italia? Friuli. In Friuli. In Friuli vi scuoiavate i topi. Sì. Poi mettevate le pelli ad essiccare. Sì. E ci facevate delle borsette. Non ci facevamo niente. Ci divertivamo a fare queste pelli tutte inchiodate su un pezzo di ma con cosa le aprivate? Con le forbicine? Non me lo ricordo. Sono passati un po' di anni. Vabbè, questo è un passatempo che ricorda le nostre origini, insomma, di civiltà contadina. Poi mio nonno aveva un granaio, sì. Un granaio, e la notte si sentiva cavalcare. Però, cioè i topi che si accoppiavano? Topi, eh? Che vuol dire cavalcare? Cioè sentiva come se cavalcassero... Ah, galoppo, topi al galoppo. Galoppo di topi, perché lì naturalmente venivano tenute delle granaglie, delle cose, e insomma era... Quindi il topo ha ispirato tutta la sua vita praticamente, dalla fanciullezza, adolescenza, all'età del lavoro. Mi fanno le cosiddette pantegane, mi fanno un po' schifo, però il topolino piccolo è anche carino, no? Beh, dopo tanti che ne ha ammazzati si è riconciliato. non ne ho ammazzati tanti. Beh, l'ha scuoiati. Uno, guardi. Adesso tira indietro. Va bene, che possa perdonarli il grande topo nelle sue praterie infinite per il male che ha fatto ai topolini, ma in fondo è stata anche interessante la sua testimonianza di vita, che spero è surrogata e supportata da testimonianze di tanti altri ascoltatori. Cosa avete voi fatto ai topi? Cosa vi hanno fatto i topi? Cosa vi immaginate che i topi possano farvi? E se volete, anche la versione femminile del topo, se pensate che abbia qualche suggestione degna di essere raccontata. Osserva molto bene, Remy. Ecco cosa accade quando un topo abbassa la guardia e si fida degli umani. Il mondo in cui viviamo appartiene al nemico. Dobbiamo vivere con cautela. E dobbiamo proteggere i nostri simili, Remy, perché alla resa dei conti, su di loro puoi contare. La saga di Ratatouille, devo dire, ci fa molto riflettere. Innanzitutto Ratatouille è un topo, è un ratto, sono topi da fogna, sono topi che stanno nascosti, sono topi che mangiano schifezze, ma lui nella catena evolutiva del ratto è quello che è più vicino alla sensibilità, all'estetica del cibo degli umani. Diventa un grandissimo cuoco, il più grande cuoco di Parigi. Con quelle sue zampettine lerce riesce a cucinare dei manicaretti talmente metafisici che il grande critico Gusteau addirittura ne riesce colpito, tanto che alla fine poi sarà compensato in questa sorta di osmosi, questo passaggio dalla condizione rattesca alla condizione umana. Beh, visto che l'aspetto metaforico e l'aspetto favolistico del topo è quello che a noi più interessa, poi parleremo anche dello sterminio sistematico di topi con un esperto, quindi preparatevi a prendere appunti. Questa mattina abbiamo una nostra amica al telefono, Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Silvana De Mari, ricordo, scrive romanzi per ragazzi in cui si affrontano spesso temi forti, temi anche degni di attenzione per adulti. Tra i tuoi saggi cito Il drago come realtà, sul significato storico delle fiabe, Il cavaliere, la strega, la morte e il diavolo, edizioni Lindau. Silvana De Mari, riesce a chiarirmi questo mio dubbio? Com'è il topo è così vicino al nostro immaginario di fanciulli e anche al nostro immaginario di uomini maturi nella sua versione femminile, e perché poi invece è così detestabile epidermicamente da noi? Il topo nelle sue due grandi categorie, il topolino domestico e il ratto delle chiavi che è sul molotto, è un animale, sono dei pochissimi animali, gli altri sono il piccione e la blatta, che si sono adattati all'ambiente umano. Quindi non sono stati minimamente diminuiti dal fatto che l'uomo abbia conquistato grosse parti del pianeta, ma anzi ne sono stati enormemente aumentati. E dato che vivono nel nostro mondo domestico, vivono sempre con noi. Da un lato conservano l'ultima traccia del selvatico, ci consentono anche l'ultimo contatto con la nostra ferocia. Anche i più buoni di noi hanno ammazzato un topolino che hanno trovato in casa, ma soprattutto la loro irrinunciabile storia. Ammazzare il topo, altri animali uno non ci pensa nemmeno, il topo va ammazzato quando si vede. Sì, anche la blatta. Sì, abbastanza, anche lo scarafaggio. Le farfalle sono carine e simpatiche, poi la blatta quando è molto piccolina, c'è cioè le macchiette e la coccinella, che è carina, quando è un po' grassona ci fa fuori. Chissà anche perché nera va schiacciata e arancione a palline no. Sì. Anche perché bene o male, anche prima della scoperta della genesi microbiologica delle malattie, blatta ma soprattutto topi sono purtroppo collegati alla storia dell'umanità, perché portano malattie tremende, di cui la più famosa è la peste, ma non certo l'unica. Tra l'altro adesso stiamo scoprendo sempre di più, è un'acquisizione recente, che quando Colombo arriva nelle Americhe le popolazioni native americane stanno già agonizzando per terrificanti virosi contagiati dai ratti. In tutti i casi il ratto ha una seconda problematica grave, che è quello di mangiare esattamente le stesse cose che mangia l'uomo, sono onnivori come noi. E se noi calcoliamo un X gram quantitativo di grammi al giorno moltiplicati per 6 milioni di ratti, che sono quelli che sono a Parigi o quanto volete, sono dei quantitativi enormi che nel mondo occidentale industrializzato possono essere tollerate, ma nel mondo medievale faceva una differenza tra vivere per stare di fame. Mentre il grosso, cioè si mangiavano gli umani alla fine i topi, non avendo altro si mangiavano i piedi degli uomini. Si mangiavano gli umani e poi soprattutto si mangiavano le derrate alimentari. Nel momento in cui io sono una signora medievale e sono riuscita a costo di tutti i miei risparmi a mettere nella mia cantina 3 sacchi di grano e un sacco di cipolle e i topi me li mangiano, io e i miei figli moriamo di fame. Poi se lascio il neonato da solo e il neonato rischia anche che le pantegane se lo mangino, ma soprattutto una volta che si è mangiato il mio cibo io muoio. Per cui il ratto, il topo è l'esemplificazione del nemico dall'interno che ti stermina perché ti distrugge il cibo e ti contagia le malattie. Il famosissimo Mouse, il fumetto ambientato nei campi di sterminio, si riferisce a un terribile documentario fatto da Goebbels dove c'è l'assonanza tra gli ebrei e i ratti. Questo documentario comincia con questo fiume di ratti che esce da una chiavica e poi la camera si sposta su ebrei di un ghetto. C'è anche il famoso monologo del comandante nazista nell'ultimo film di Tarantino, quando va a casa del contadino francese che tiene gli ebrei nascosti sotto il pavimento, fa questa metafora fra ebrei e topi. Io conosco le abitudini dei topi. Sì, perché c'era questo documentario di Goebbels. La metafora nasce da questo documentario di Goebbels, anche perché il topo è colpevole in quanto topo, non c'è bisogno che abbia fatto qualcosa di quindi male. Quindi era perfetta la simmetria, nell'abominio, sì. Nell'abominio del paragone diceva sono esseri che si mangiano tutto, vivono parallelamente alla nostra esistenza e mangiano le nostre risorse, questo era il terribile messaggio. Esatto, il nemico dall'interno, ovviamente il nemico dall'esterno, il lupo, il leone, il faccio l'inferriata, lo fermo, il nemico dall'interno mi dona dall'interno e nasce da questa da questo documentario di Goebbels, peraltro nasce anche dal fatto che per tutta la storia dell'umanità il topo sia stato il nemico che ti ammazzava i figli, il lupo lo fermavi, il leone lo fermavi, il topo non lo fermavi. Sì, io ricordo leggende da bambino, oltre alla paura terrificante del topo nella dispensa, ricordo mia nonna aveva una sorta di bricolage domestico per fermare i topi nella dispensa, entravano sempre i topi, era quello di contadini che raccontavano di un bambino lasciato, i topi avevano mangiato le cartilagini, il naso, le orecchie, o addirittura ancora più leggendario, succhiavano, attribuito anche a serpenti, il latte della mamma addormentata. Melog 2.0. Il Rattus norvegicus è uno dei ratti più conosciuti e di maggior diffusione. È conosciuto anche come surmolotto, chiavica, ratto grigio, ratto delle chiaviche, ratto marrone o pantegana. Non è noto con certezza il motivo per cui venga identificato come Rattus norvegicus, cioè ratto norvegese, dal momento che esso non è originario della Norvegia. L'animale si presenta come un grosso topo con coda lunga, filiforme e glabra. Le orecchie sono simili a quelle del moscardino. La lunghezza è molto variabile, dagli 8 ai 30 cm. Il peso si attesta solitamente intorno ai 2 etti. La vita media del Rattus norvegicus in natura è di 2 anni, 4 in cattività. Mi spiace per tutte le persone, soprattutto le signore, le care amiche, che inorridite scrivono su Facebook, che non possono nemmeno sentir nominare topi e ratti, perché questa loro paura è così radicata, così lontana, così irrazionale, inspiegabile, che non riescono nemmeno a sentirne parlare. Sforzatevi. Ci ha detto Silvana De Mari quanto sia legato il topo ad ogni immaginario, l'immaginario nefasto, il topo che mangia le riserve di cibo, il topo che porta le malattie, il topo come nel caso del fumetto di Spingelman, Maus, che rappresenta e giustifica i peggiori abomini di questi ultimi nostri decenni. Allo stesso tempo esiste una carezzevole, divertente e ilare rappresentazione del topo, che ha accompagnato la gioventù, la fanciullezza di tanti di noi, della maggior parte di noi, i topi rappresentati nelle favole, nei fumetti, nei cartoni animati, insomma nell'immaginario destinato alle nostre giovani menti, e i topi è come primo territorio di prova della nostra capacità di essere cruenti e capaci di cacciare. Il ratto nero o ratto comune viene comunemente chiamato ratto delle navi per distinguerlo dal ratto delle chiaviche, Rattus norvegicus. La lunghezza del corpo, compresa la testa, è di 16-23 cm, mentre la coda, spelata e con anelli di scaglie, è lunga sui 25 cm. Il peso è molto variabile, ma può raggiungere i 250 grammi. Sul dorso la pelliccia è grigio scura o grigio nero. Il ratto nero è, se così si può dire, più cittadino del ratto delle chiaviche e vive normalmente nei grandi porti commerciali o sulle navi. I topi dalle navi, oltre a portare la peste, portavano i vampiri nel meraviglioso Nosferatu con Klaus Kinski. Ricordo che all'inizio il vampiro viene trasbordato attraverso i suoi amici topi. I ratti, come i pipistrelli, sono animali comunque legati all'idea del succhiatore di sangue, l'idea dell'eternamente vivo, questa specie parallela che sembra potersi riprodurre in maniera così feroce da sembrare appunto costellata dai mortali. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei è uno spaventato dai topi? No, terrorizzato, ma irrazionalmente, perché poi non riesco neanche a risalire. Però devo dire che la placca fa lo stesso effetto, oggi non più, ma da bambino mia madre mi ricordo che mi spaventava con la placca, cioè se io non ubbidivo mi avvicinavo a una placca in maniera tale che io ne avessi terrore. Sì, ma lo sa, poveraccio, lo scarafaggio corre pianino per quanto zampetti, sì, quindi è facile schiacciarlo. È vero, ma è irrazionale, totalmente irrazionale. Io il ratto Cioè, non riesco a capire perché, perché poi tendenzialmente non è che si attacca oppure... Sì, ma corre in una maniera talmente sghemba, talmente difforme, è così veloce, allo stesso tempo così rapido, con quelle zampettine che si portano dietro tutta quella massa pelosa e quella coda dietro, che in effetti è qualcosa che inquieta. Non so perché, non è detto che sia giusto, ma è esattamente così. Poi, da dire, io appunto, come dicevo, faccio anche degli sport estremi, quindi diciamo... tra virgolette sono coraggioso, eppure questa cosa al femminile salgo sulle sedie quando vedo. Quindi lei riesce a guardare la morte in faccia con il sorriso sulle labbra, esattamente così, ma se vede un topo scappa sulla sedia come una signora ottocentesca, urla e stringe le gambe pura che il topo possa farle chissà. Me ne vergogno. Va bene Fabio, a questo punto daremo giustizia a lei, a tutti terrorizzati dai topi, perché finalmente abbiamo a disposizione un esperto. Il vero sterminatore di topi e ratti è Matteo Teodoli. Buongiorno. Allora, buongiorno innanzitutto Teodoli, non Teodoli, ma fa niente. Comunque. Ah, Teodoli. Matteo Teodoli, no, devo dirlo bene, perché lei è amministratore delegato e direttore commerciale della Sanatec di Disinfestazioni. Quindi Matteo Teodoli è, si può dire, il killer dei topi per eccellenza. Ma. Diciamo che i killer dei topi sono i miei tecnici più che io in, vabbè, lei è, in particolare, comunque sì, volevo dare già un è come paio Carradine di... per Kill Bill, è lei che li manda però. Sì, esatto, diciamo, volevo dare già due nozioni rispetto alla voce che ho sentito, che avete mandato prima. Il ratto norvegico viene chiamato norvegico perché è stato studiato in Norvegia e quindi è per quello che gli è dato questo nome. Come, quindi non ha nulla a che fare però con quelle latitudini? No, diciamo che... le origini si pensa che siano di origini russa, il ratto norvegico. Lei li conosce tutte le specie, cioè se lei vede passare un topo capisce subito a quale specie appartiene. Ma di primo occhio i principali sicuramente sì, dopo ci sono alcuni che sono molto simili, quindi vanno analizzati. La pantegana del Tevere cos'è, tanto per capire? Questo è un norvegico, viene detto anche ratto di Fonia comunque, non l'avete detto tra i vari nomi comunque, il ratto di Fonia è una pantegana. E in realtà il topo nero... che il ratto nero che avete definito prima viene chiamato ratto dei tetti, quindi e la presenza è ormai al 50-50, ratto norvegico, ratto di Fonia e ratto dei tetti. Senta, un signore mi ha scritto da Verona e io stesso ne ho testimonianza, la nutria quanto è imparentata col topo? Ma diciamo che il problema della nutria... la nutria è un castoro fondamentalmente, è una specie che non è autoctona. È nata... Ma si vedono nuotare le nutrie nei nostri fiumi ormai normalmente? Purtroppo sì. È stata importata per fare le pellicce di castorino, quelle orrende pellicce che andavano di moda negli anni 70. Sì. Dopo cosa hanno fatto? Hanno sbagliato a livello legislativo, nel senso che hanno obbligato gli allevatori ad abbatterle senza dare nessun contributo e qualche genialoide la liberata. Quindi è plausibile che siano nutri quelle che nuotano svettanti lungo il Tevere, che ho visto io? Guardi, sinceramente è più difficile che siano nutri, perché le nutri stanno in ambienti più verdi. Allora spero che mi ascolti, che mi stia ascoltando l'oste del lungo Tevere che spacciava per nutri quelle che erano pantegane, no, può essere, norvegesi. Può essere, diciamo che all'interno della città si arrivano spesso, però la maggior parte delle nutrie stavano a Villa Panfili una volta, ricordo, quindi giravano per questa villa, erano carine, non scappavano via, anzi i bambini le guardavano e facevano le fotografie. Senta, andiamo al punto. Allora, è vero che c'è un trend di crescita di questi tipi di animali in maniera esponenziale, tanto da far paura, da impressionare? Diciamo che come tutti gli infestanti a livello mondiale stanno crescendo, perché c'è uno squilibrio strutturale, naturale, quindi cosa fanno gli infestanti? Crescono. A livello di statistiche, l'unica statistica che abbiamo è una statistica dell'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto un'analisi e ha visto che il trend di crescita uomo-topo è passato dal 68 all'88 da un rapporto di 1-1 a un rapporto di 1-4 e nel 2008 stime non ufficiali danno questo rapporto ancora cresciuto, quindi ogni persona ci sono 7 topi. Senta Teodoli, quando io vedo un topo per strada quanti ce ne stanno nascosti nei paraggi, tanto per darsi un'idea? Sì, Allora, diciamo che le statistiche danno circa 70 topi nascosti tra i dominanti, le femmine. Quindi ogni topo che si vede ci sono altri 70 appostati lì nei paraggi, da qualche parte. Esatto, questo è il numero. Questo è divertente, è divertente. Senta, quali sono... Non per il signor di prima. Sì, sì, così quando ne vede uno sappia ce ne sono altri 70 che li guardano dietro. Ma anche nel film di Ratatouille è esattamente così. Quando la vecchia col fucile gli spara, tutti i suoi amici erano nascosti dentro i lampadari. Il presente venne fuori, c'era tutta la colonia. Ecco. I più deboli escono allo scoperto. Diciamo, di solito sono gli anziani, sono quelli che non riescono ad avere il cibo o ad accedere al magazzino di alimenti che hanno nella tana. Ecco, ma è vero che hanno questa, cioè noi parliamo dei conigli per dire l'accoppiatore veloce e compulsivo per eccellenza, ma il topo quanto si accoppia? Beh, diciamo che sicuramente più di me, nel senso che loro si accoppiano circa una volta al giorno i maschi e anche due volte al giorno le femmine, quindi non sono molto fedeli. Vabbè, per questo si dice la topa, questa suggestiva, se vuole, ma anche condanna onomatopeica di rappresentare l'organo femminile nella la sua rappresentazione esteriore. È molto lussuriosa quindi la femmina del topo. Eh sì, è molto lussuriosa e poi anche precoce, nel senso che in 60 giorni può dar vita a una nuova progenie. Senta, velocemente, come dare la linea all'informazione del traffico, quali sono i sistemi più efficaci, più rapidi per... toglierci il ritorno mi sembra impossibile. Derattizzare cosa significa? Ammazzarne un po', fare delle azioni comando, ma mi sembra se le proporzioni sono queste non riusciremo mai a liberarci dei topi, forse nemmeno dovremo. Diciamo che sicuramente i piani integrati aiutano, quindi operazioni di chiusura di accessi, di rat proofing in particolare, di derattizzazioni, quindi con delle esche, e anche le trappole sono ormai le più utilizzate. Dopo hanno provato anche con la bomba atomica, ma non ce l'hanno fatta. La bomba atomica con i topi? Sì, hanno fatto degli test nucleari i francesi su un'isola, adesso non mi ricordo esattamente. E non è servito a nulla. Il nome, e hanno visto che è morto tutto, fauna, flora, tranne i ratti norvegici. Davvero che possono risalire le tubature, uscire dai water anche ai sesti piani, quinti piani, così almeno si dice? Ma di solito chi esce dalle tubature è il ratto di fogna e quindi di solito sale solo nei piani bassi. Allora fermiamoci un attimo, siccome c'è molto interesse per quello che sta dicendo, ci fermiamo soltanto un istante per dare le informazioni dal traffico e riprendiamo con i sistemi di sterminio per i topi, perché mi stanno sollecitando su Facebook, dici almeno come possiamo ammazzarli. So che questo non è bello, ma se lo chiedete ve lo dirò. Melog 2.0. Ehi là, salve, sono io, Topolino. Allora, vi va di fare un salto nella mia casa? Ah sì? Grandioso! Su, andiamo! Per far apparire la mia casa, dobbiamo dire la parola magica. Tisca, Tusca, Topolino! Diciamola insieme. Tisca, Tusca, Topolino! Matteo Tedoldi, amministratore delegato e direttore commerciale della Sanatec Disinfestazione. Lei Tisca Tosca non lo dice mai, la frase di Topolino? No. Ah, lo dice. Ho due bambine, quindi per forza devo... Ecco, mi scusi se entro un attimo nella sua sfera personale, ma come concilia con le sue bambine che guardano la casa di Topolino a Disney Channel, il papà torna alla casa con la doppietta ancora fumante e grondante di sangue di Topolino innocente? Ma diciamo che la piccola... non ha ancora la concezione del lavoro del papà, invece la grande ci scherza un po' con le amichette a scuola, nel senso che chiaramente con la mia professione che mi chiamano il killer perché uccido tutto, quindi hanno un pochino più il terrore le amichette di mia figlia che mia figlia in sé. Senta, il fatto, la derattizzazione quando si ritiene necessaria, non è sufficiente osservare un topolino che passa sul marciapiede e chiamare la derattizzazione quando c'è un'infestazione vera e propria, ma in questo caso cosa succede? Vengono ricacciati sottoterra, ma da qualche parte riusciranno. Mi sembra come una sorta di ago nel pagliaio derattizzare, perché da qualche parte riusciranno sempre, o non è così? Allora, diciamo che a livello biologico siamo gli unici antagonisti reali presenti nella città, quindi i derattizzatori devono essere presenti. Perché i gatti è una presa in giro, i gatti non se li mangiano più, allora, i topi. Premessa che i gatti sono antagonisti solo dei topi, non dei ratti. Scappa il gatto quando vede il ratto. Quindi gli antagonisti dei ratti sono i cani, i mustelidi, sono i rapaci, sono animali più grandi, cioè non posso pensare che di mettergli un gattino risolvo il problema. vanno fatti piani integrati. Purtroppo a livello comunale, statale, provinciale spendono sempre meno soldi perché sono cose poco visibili, almeno. Ma sai la cosa paradossale che ho visto al centro di Roma? Un gabbiano che si mangiava un topo, che penso che mai 20 anni fa sarebbe stato impensabile. Un gabbiano a Piazza Colonna che si mangiava un topo. Non so se l'ha trovato morto o l'ha ammazzato lui. Ma no, capita. Come, diciamo che i principali predatori sono i rapaci, che ormai hanno lasciato la nostra città. Quindi questi, i gabbiani, che sono i nuovi infestanti delle città, dopo i piccioni, hanno anche loro bisogno di mangiare. Quindi vanno, che stanno sterminando i piccioni, i gabbiani, tra l'altro. Tra poco dovremo chiamare le aquile per mangiarsi i gabbiani. Ma dipende poi da che tipo di gabbiano. Diciamo che si sono divisi le aree. Sicuramente è un infestante che è invasivo quasi quanto il piccione. Senta, quelle striscioline gialle che vengono messe intorno ai palazzi servono a qualcosa? Intanto viene gli amministratori di condominio, gli umarelles soprattutto, e mettono questa sorta di striscia gialla, non so se sia un veleno, un dissuasore di topi, è una presa in giro. Sì, non assolutamente. Allora, quelle strisce gialle che lei vede sono dei repellenti per le urine dei cani. Non servono per i topi? No, assolutamente. E forse poco anche per i cani? Sì. Il vero sistema funzionale cos'è? La camera a gas? Diciamo che inizialmente bisogna capire che tipo di ratto o che topo vado a combattere, perché se io so chi combatto riesco a essere più intelligente di lui, perché purtroppo una lotta con animali intelligenti che cercano di sopravvivere, come tutti a livello biologico devono cercare di sopravvivere, quindi è una lotta comunque tra il più cattivo tra il buono e il cattivo. Noi siamo i buoni e dobbiamo cercare di essere più intelligenti di loro. Beh, una volta in campagna si sparava veramente con la doppietta, oggi immagino saranno sistemi scientifici, incruenti e probabilmente molto più efficaci. La ringrazio, Matteo Tedoldi, buon lavoro e buona caccia. Riprendo con Silvana De Mari, che ho tenuto un ascolto fino adesso, ricordo, romanziera per ragazzi, grande esperta di elementi simbolici che stanno dietro anche agli animali che costellano fiabe, fumetti e cartoni animati. Quello che abbiamo detto finora con il derattizzatore, le ispira qualcosa, Silvana De Mari? Sì, assolutamente sì. Il ratto ci ha fatto tanto, per cui topi, sorci e pantegane pullulano nell'immaginario collettivo, perché il ratto è contemporaneamente due cose, la vita e la morte. Il ratto è qualcosa di assolutamente vitale, infermabile, inammazzabile. Resiste alla bomba atomica, si riproduce con una rapidità strepitosa, ma è anche uno dei nostri simboli di morte, nel senso che ci può letteralmente uccidere con la peste o con la fame, lo sappiamo. Nel senso che in qualche maniera spesso i ratti mangiano i cadaveri nel momento in cui i cadaveri non siano sepolti. Quindi il ratto nell'immaginario collettivo è a metà tra la vita e la morte, e insieme la sessualità sono due cose che ci terrorizzano, per cui molto spesso il ratto è collegato a un altro archetipo, che è quello dello zoppo. E vorrei citare tre zoppi e altre storie di ratti, che sono Amelin, Cenerentola e l'ultima, è una storia molto recente. Il pifferaio di Amelin è raccontato dai fratelli Grimm, non nelle fiabe del focolare, ma in un altro libro che si chiama del germaniche. Già la parola saga ci dice che stiamo parlando di qualcosa che ha una base, uno straccio di realtà storica al suo interno ce l'ha. In effetti, nella città di Amelin, in Bassa Sassonia, ci sono due iscrizioni datanti 1260 e una delle vetrate della cattedrale, che ci raccontano come in quel terribile anno è passato un reclutatore e la città è rimasta priva dei suoi figli. Dei suoi figli bambini, il reclutatore li ha portati via con sé. Era il periodo delle crociate dei pastorelli, dei pazzi furiosi raccattavano i ragazzini per le città. Nessuno di questi bambini è mai neanche arrivato vivo in terra, nel senso, l'hanno venduto come schiavo, qualcuno è morto lungo la strada, sono morti, sono finiti nella terra. Quando uno finisce nella terra, ci dicono i freudiani che è una rappresentazione della sessualità, senz'altro, vuol dire anche che è morto. Quindi passano i reclutatori, le crociate dei bambini, e nemmeno i padri hanno la forza di opporsi alla potenza delle teocrazie. La stessa cosa è successa in Iran, quando l'ayatollah Khomeini raccatta i bambini di 10-11 anni per usarli come sminatori, i padri non riescono a opporsi, la potenza della teocrazia è inimmaginabile. Questi bambini vengono, quindi finiscono nella terra, ma un bambino non riesce a star loro dietro, ed è quello zoppo. e qui si ricrea l'archetipo dello zoppo. Lo zoppo è un archetipo fondamentale, lo zoppo è uno che cammina con un piede nel mondo dei vivi e un piede nel mondo dei morti, è presente in tutte le culture. In quella greca, Giasone è un sandalo sì e un sandalo no, Edipo è stato ferito ai piedi, Achille sarà ferito ai piedi, questo nome Claudio, un nome bellissimo, il più bel nome che esista, perché vabbè, si rifà la Gens Claudia, ma avevano il nome dello zoppo proprio perché lo zoppo è l'archetipo, solo colui che ha sofferto può diventare il guaritore, solo colui che è stato ferito può diventare lo sciamano. Da qui si passa a una seconda zoppa, che Cenerentola, Cenerentola come Giasone, una scarpa sì e una scarpa no. Terza Silvana De Mari, perché la sigla ci sta portando via. La seconda è Cenerentola, abbiamo capito che fugge con la scarpetta, quindi rimane zoppata. Il terzo zoppo sta vicino a Cenere, che è un luogo di morti. La Cenere è il luogo dove si ricordano i morti e usa i topi per trasformarli in destrieri, cioè, poi per riuscire a riaffiorare il mondo dei vivi. L'ultimo zoppo straordinario è Dumbo. Anche Dumbo sta con un topolino che gli segna la strada. Dumbo nasce in anni terribili, dove a causa di un uso di un farmaco, la talidomide, in gravidanza, c'è un altissimo numero di bambini deformi. Dumbo è il malformato, Dumbo è lo storpio, Dumbo inciampa nelle sue orecchie, ma le sue orecchie sono le sue ali. Infatti un topolino riuscirà a convincere con gli amici corvi Dumbo a volare. Io con grande dispiacere devo interrompere la Silvana De Mari, perché mi stanno proprio togliendo la sedia di sotto. La sigla dice la trasmissione è finita, ma non finirà la nostra indagine nel mondo degli animali che ci insegnano ad essere più uomini. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.